Noi abbiamo un dato 2024 rispetto alla chiusura del 2023 sull'utilizzo degli ammortizzatori sociali che ci parla di un aumento di quasi il 55% del ricorso alle ore fra cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Se guardiamo all'ultimo scorcio dell'anno del 2024, addirittura il rapporto rispetto all'ultimo scorcio dell'anno precedente sale al 68% in più. Questo ci lancia un grido d'allarme su come si sta avviando il 2025. I dati sostanzialmente ci parlano di una contrazione manifatturiera devastante che riguarda intanto i settori che ovviamente sono già interessati a livello nazionale, pensiamo all'automotive, pensiamo alle scelte anche di questo governo e dell'ENI rispetto alla chimica di base e a tutto quello che comportano in termini di conseguenze. E poi abbiamo anche, diciamo così, crisi che riguardano settori più specifici del nostro territorio, pensiamo a tutta la meccanica legata alla costruzione di macchinari piuttosto che al movimento terra, pensiamo alla ceramica, pensiamo alla moda, pensiamo al calzaturiero. È un quadro che ci preoccupa perché ovviamente se questa situazione di crisi non dovesse risolversi dopo il ricorso alla cassa integrazione rischia di erodere lavoro stabile, rischia di erodere reddito perché chi viene espulso dalle produzioni manifatturiere ovviamente in genere va su lavori più fragili dal punto di vista sia contrattuale sia retributivo e andiamo anche a una rioccupazione su settori strategicamente più poveri. È una situazione che io credo tutta l'Emilia Romagna, istituzioni e parti sociali dovranno monitorare con grandissima attenzione. Poi rischia di piovere sul bagnato se Donald Trump ripristina i dazi, sappiamo che la nostra regione esporta molto. Assolutamente, qui occorrerebbe uno scarto da parte del governo nazionale che assolutamente non si vede. Abbiamo un governo completamente adagiato, completamente pronato in questa trasformazione del nostro paese in una specie di succursale dell'America di Trump e del nuovo capitalismo americano, che però sarà devastante per l'Europa e per il nostro paese, perché è chiaro che l'intenzione di chi guida questi processi da oltreoceano è esattamente quella di depredare l'Europa, di trasformarla in una colonia che compra e produce solo quello che interessa all'altro capo dell'Atlantico. Occorrerebbero politiche industriali serie che questo governo, a dire il vero, come tanti altri precedenti, non ha messo in campo. Adesso c'è quest'idea del MIMIT, di un libro verde che però in questo momento è tabula rasa. È come quando Fracchia in televisione dicesi politiche industriali. Ecco, siamo a questo livello. Occorrerebbe ben altro e oggi non scontiamo solo l'assenza di politiche industriali, ma anche di politiche macroeconomiche per questo paese. Abbiamo un governo che ha programmato la riduzione scientifica dei salari e delle pensioni per i prossimi 5 anni, di fatto la svendita della sanità pubblica, perché fra 2 anni il rapporto fra spesa sanitaria e PIL scenderà sotto la soglia psicologica del 6%, e che ha programmato di investire 35 miliardi in armamenti di qui al 2039, che sono regali all'industria digitale americana della sicurezza. In una recente intervista sul Corriere di Bologna tu hai anche detto che insomma chi ha guadagnato in questo territorio non pensi adesso di disimpegnarsi, di scappare. Assolutamente, qui c'è un ruolo anche che dobbiamo gestire e giocarci a livello locale, in cui la regione deve svolgere compiti abbastanza stringenti. Il primo è far capire appunto a chi è stato presente in questo territorio e ha prosperato per anni grazie alle condizioni di sviluppo consentite dal nostro territorio regionale, e grazie a questo ha incrementato profitti e dividendi, perché non dimentichiamoci che chi oggi batte crisi per anni ha incrementato utili, profitti, dividendi e fatturati. Ecco, adesso nessuno si può permettere di partire, di fare le valigie in salutato ospite. Ecco, qui ci si siede a un tavolo di crisi e si trovano le soluzioni e non ci si alza dal tavolo fino a quando le soluzioni non sono state trovate.